poi termini della questione relativa al progetto, insomma, ai locali che dovrebbe ospitarlo, e, insomma, il senso di questa iniziativa per l'appunto, e poi il programma come sta procedendo. Sì, dunque, siamo qui in questa via storica del Movimento Romano, che è via Montebianco 114, sotto la casa che fu di Carla Sardo Verbano e di Valerio Verbano, che fu assassinato qui dai fascisti 22 febbraio 1980. Come compagni e compagni di Carla e Valerio, dopo la morte di Carla abbiamo iniziato a riunirci, a fare una serie di incontri, perché non volevamo assolutamente che tutto finisse con la morte di Carla, e quindi volevamo continuare con la memoria, ricordare Valerio, il suo assassinio, e ricordare Carla, che tanto si è impegnata per cercare una verità completa sull'omicidio di suo figlio. Per cui abbiamo iniziato a ragionare per costruire un'associazione culturale aperta a tutte e tutti gli antifascisti, per portare avanti il discorso della memoria, perché volevamo chiedere che l'appartamento dove viveva Carla e dove Valerio è stato assassinato venisse assegnato appunto a questa associazione. L'appartamento è di proprietà tuttora della Regione Lazio, e Carla ci viveva in affitto, ha sempre vissuto in affitto, in locazione. Volevamo far sì, e lo vogliamo tuttora, che questo appartamento diventasse un luogo per ospitare un archivio, un centro di documentazione, non un luogo statico, fermo, ancorato al passato, ma che parlasse al presente e al futuro, in particolare ai giovani, agli studenti, una cosa di cui Carla, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, si era sempre impegnata tantissimo, per andare in giro nelle scuole superiori a raccontare ai ragazzi e alle ragazze giovanissime chi era Valerio, perché lottava e perché è stato assassinato e perché in questi 32 anni non c'è mai stata una verità giudiziaria. La verità storica e politica la sappiamo, e fin da quel giorno maledetto è stata affermata con forza, ovvero che Valerio è stato ucciso dai fascisti. Per cui si è iniziato questo lavoro per farci, insomma, assegnare dalla regione questo appartamento, rispettando anche un po' le modalità di Carla rispetto all'azione politica. E dopo una trattativa ufficiosa che era in corso, lo scorso 27 settembre la Regione Lazio, con un blitz infame, non ho altro modo per descriverlo, ha mandato una squadretta di operai che hanno sigillato l'appartamento, hanno buttato letteralmente sul pianerottolo di via Montebianco il divano dove cadde Valerio prima di morire poi nel trasporto con l'ambulanza verso il policlinico. Un gesto veramente che voleva non solo cancellare la memoria, ma esprimere tutto il disprezzo dell'allora giunta Polverini verso Carla, Valerio, i compagni e le compagne. Per cui con calma e pazienza abbiamo ragionato, abbiamo iniziato a costruire un percorso di assemblee cittadine per coinvolgere chiunque sentisse importante muoversi su questo terreno, e abbiamo organizzato questa iniziativa oggi pomeriggio, che vede la presenza di compagni e compagne, innanzitutto di attori e attrici, con letture antifasciste, con letture delle lettere dal carcere di Valerio Verbano, o letture dal libro di Carla, sia Folgorante la fine, musica, interventi politici, per dire: noi siamo qua, non ci dimentichiamo quello che avete fatto lo scorso 27 settembre, la memoria non la cancellate con quattro sigilli, e da questa strada non ce ne andiamo, anche se, ahimè, Carla non c'è più, noi continuiamo la nostra lotta. Pronto? Bene, pronto, sì, ti abbiamo ascoltato e mi sembra esaustivo, magari adesso un breve accenno, insomma, a chi interverrà. Lettura antifascista di Moni Ovadia, Mario Mastandrea, attrice contro, Kenzo, a seguire parole, musica, video in via Montebianco appunto la memoria non si riconosce. Sì, ci sarà una ci sarà un video di Monio Vadia che ha mandato un contributo che leggerà l'intervista di Sardo Verbano che fece al Paese Sera nel lontano aprile del 1980, che è un'intervista molto toccante emotivamente ma anche lucida politicamente, e che dice quasi con dono profetico: se non si troverà la verità sull'assassinio di mio figlio, Valerio sarà morto due volte. Poi ci sarà una lettura alternata dal testo di Carla e dalle lettere di Valerio Verbano, fatta da Alessandra Magrini, alias Attrice Contro, insieme a Valerio Mastandrea, che è qui fra noi fisicamente. Poi ci sarà appunto musica, altre parole, interventi, ci sarà Kento che farà un contributo musicale antifascista a questa iniziativa. Ci sono forse 200 compagni adesso, ovviamente molti compagni e compagni che dovevano venire presumiamo ci hanno detto sono all'iniziativa per la Palestina, però comunque un nutrito gruppo di compagni e compagni è qui a Monte Sacro oggi. Va bene, grazie per ora, casomai ci sentiamo più tardi. Ciao, ciao. Ciao.